alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. Sedicesima puntata. Accolsi la certezza della mia quarta gravidanza come una regina la corona. Non la pensai come un rischio in quel timido inizio di armonia sessuale tra me e Gianni, anzi era la testimonianza del nostro nuovo affiatamento, il figlio dell'amore. Continuavo in realtà a essere ignorante ed estranea riguardo alla pratica del sesso. A ciò aveva anche contribuito mio marito, il quale, non molto più esperto di me, aveva, con un certo malanimo verso lo stile corpo femminile, alimentato i miei sensi di colpa per la mia freddezza. Agli impacci della nostra generazione si aggiungeva la nostra reciproca insicurezza, la sua chiusura, il mio orgoglio. Lui non avrebbe mai parlato della cosa, qualsiasi mio tentativo si infrangeva contro il suo mutismo. Mi ero dunque abituata, senza accorgermene, a colmare questo nostro fallimento con tutte le altre ricchezze della mia vita. Mi feci cucire una gonna blu, comperai al mercato un taglio di stoffa intonata e la solita sartina lo trasformò nella solita casacca. Ero una gravida elegante, avevo pure delle bellissime scarpe bianche e blu. Anche se la mia pancia era un poco più grossa delle volte precedenti, però le calze elastiche che mi toccava portare erano assai meno brutte di quelle che, spesse e visibilissime, avevo dovuto indossare 9 anni prima, mentre aspettavo mia figlia. Il mio seno era gonfio e sodo, e non curante dei «sei un incosciente» delle mie amiche e del silenzio di mia madre, mi pareva di irraggiare dal mio pancione un'aura benefica che dovesse guarire tutti. Mai, come in quella primavera, fui disponibile, comprensiva. Portavo in giro la mia pancia irraggiante e, protetta dalla sua aureola, componevo controversie. Trovavo la parola giusta, il gesto adatto per alleviare e distrarre. Anche la mia gelosia. Gianni usciva spesso solo la sera, ero troppo stanca per accompagnarlo. Si inquadrava con nuovi stimoli nella nostra sperata e avviata unione fisica. Eppure, a poco, accorgevo che c'era un ostacolo, un impedimento tra lui e me. Lo vedevo inerte e spento, appena un poco più vivace al momento di salutarmi, quando appunto poteva andarsene. Ero abituata al suo silenzio. Lui, così discorsivo fuori di casa, non lo sentivo come una mancanza di risposta. Parlavo di tutto con lui, gli raccontavo tutto. Quando eravamo separati gli scrivevo lunghe lettere. Sinora il mio parlare e il suo tacere si erano, almeno così mi era sembrato, perfettamente accompagnati. E così il mio far figli e il suo accettarli. Cercai, naturalmente, di prenderlo per mano, di trascinarlo fuori da quella sua dimensione per la prima volta segreta. Avevo bisogno di lui nel quadro della mia gioia, ma non c'era nulla da fare. Mi seguiva passivamente, come se cedesse soltanto alla pressione della mia mano. Il bambino incominciò a muoversi. Io avevo una faccia rotonda e colorita e i miei 3 figli mi mettevano la mano sulla pancia per sentirla ondulare. «Questa è la testa! Questo è il sedere! No, è un piede! Ti tira calci anche quando sei al gabinetto?» Finita la scuola, mi comperai una vestaglia a righe blu e verdi che mi stava benissimo. Seduta nel tram, un tramonto di giugno, mentre guardavo dai finestrini, avevo visto sul cielo la linea del tetto del San Giovanni Vecchio e mi ero detta: dovrò scrivere un giorno sui tetti di Torino in estate, quando ci sono le rondini. Sono molto differenti. Come sono? Ma naturalmente sono tetti felici. Stavo terminando di copiare a macchina il mio primo libro, Il tranviere impazzito, e preparavo i bagagli per andare in montagna. Lasciavo gli armadi nel solito ordine minuzioso, le scarpe risuolate, a ogni cappottino attaccato il sacchetto con i suoi ritagli di stoffa, la lista degli acquisti da fare in autunno. Nel cassetto della piccola scrivania, dove già stavano i fogli millimetrati con i diagrammi della crescita dei miei 3 bambini durante l'allattamento, c'erano gli appunti con le date delle vaccinazioni. Nella mia valigia, il libro dei conti, su cui avrei annotato in settembre, come già per gli altri, la data della nascita e il sesso del bambino. Se fosse stata una femmina, il suo nome sarebbe stato Anna. Come ogni estate, saremmo andati in montagna. Sarei rimasta sola con i bambini 15 giorni. La ragazza veneta che da 6 anni lavorava da noi si era sposata, sarebbe poi venuta ad aiutarmi nell'estate e in autunno si era impegnata a ritornare a Ore. Mia madre ci avrebbe raggiunti, come sempre, verso la metà di luglio. La casa in montagna dove affittammo per parecchi anni un appartamento grande ma senza impianto di riscaldamento né boiler e con una cucina dal pavimento di cemento ci costava molto poco. D'inverno accendevamo una grossa stufa a legna e là davanti lavavo la sera i bambini in una vaschetta. Era una casa isolata, confinante con ruderi e casupole vuote. Di giorno piena di sole, di notte buia. Anni dopo i miei figli mi confessarono che il lampione davanti a casa, sempre rotto, era servito loro di regolare bersaglio. Dalla nostra camera da letto si accedeva a vaste soffitte vuote, appunto, su altre case disabitate. La porta di comunicazione non era mai stata chiusa a chiave. Tale noncuranza faceva parte dello stile della casa e vi eravamo abituati. Come eravamo abituati alla scarsa illuminazione di lampadine pallidissime appese nei posti più inaspettati. Mio marito depositò in fretta la mia pancia, i miei bambini e partì. Intuivo un sollievo in lui mentre si avviava verso fresche serate sul Po con amici scapoli e amiche sterili. La prima notte non riuscii a dormire. Il pavimento delle soffitte scricchiolava come se qualcuno vi camminasse. Scricchiolò per tutta la settimana e io continuai a svegliarmi. La domenica dopo dissi a Gianni, che era venuto di corsa a prendere camicie pulite: «Senti, la porta sulle soffitte non si chiude a chiave». «Dillo al Galli», mi rispose, il quale Galli era il nostro fantasioso padrone di casa. Ci forniva quel che gli andava a genio: un'ottima insalata, coperte piuttosto sporche, un grande cortile pulito e cintato e appunto moltissime lampade fioche a illuminare angoli incongrui. Sia Gianni che io non amavamo le questioni pratiche e meno che mai quelle burocratiche. Io per timidezza, lui per pigrizia. Timido non fu mai. E cercavamo di scaricarci l'uno all'altro tali incombenze. Lui era eccezionale nelle occasioni eccezionali. Dormiva per terra accanto al letto d'un figlio operato. Ne portava un altro all'ospedaletto infantile per fargli ricucire un taglio. Faceva iniezioni con mano decisa e leggera. Camminava come un gatto sul tetto per raddrizzare un comignolo caduto. Andava anche a 2 funerali in un giorno, mentre io restavo a casa. Nella vita quotidiana, a parte sporadici soprassalti di sensi di colpa per cui in umore di Fioretti lavava stoviglie, era in genere assente e rancoroso. Io l'avevo messo in quel pasticcio e adesso gli toccava allontanare a calci i bambini che gli passavano sui piedi mentre telefonava. Non prese mai l'iniziativa di far spostare il telefono dal corridoio in soggiorno. Era disordinatissimo, d'un disordine primordiale, ma una volta all'anno preparava tra nuvole di fumo, in un'atmosfera di disastro imminente, la denuncia delle tasse con una cura così meticolosa che la consulente fiscale alla quale, per finire, dovette rivolgersi, disse, vedendo i nostri documenti, di non avere mai avuto in mano denunce più masochiste. Dopo 19 anni mi concesse la firma sul nostro magro conto bancario. Non credo che in precedenza non l'avesse fatto per sfiducia. Semplicemente non gli era venuto in mente, così come fummo gli ultimi a Torino a farci pagare le bollette dalla banca. Mi trovai dunque per necessità in prima linea nella trita quotidianità. Non me ne dolevo come di un'ingiustizia. Rispettavo il lavoro scientifico di mio marito, lo ammiravo anche, e mi pareva di dover rispondere di persona perché gli toccava arrabattarsi tanto per noi. Non facevo ancora confronti tra lui e me. Dalla mia felicità traboccavano energie gigantesche. Naturalmente non parlai al Galli della porta delle soffitte, temevo di fare brutta figura. Il pavimento scricchiolava notte dopo notte, sempre nello stesso modo, e non arrivava mica nessuno. Dentro di me il bambino si muoveva. Era già allora uno che sta sveglio la notte. E quando mi alzavo per andare ad ascoltare alla porta della stanza di fronte, sentivo i miei figli respirare tranquilli nel sonno. Tornavo allora a letto e mi coricavo, le mani incrociate sul mio pancione. Stavo sveglia e pensavo, pensieri confusi e impotenti, stracci di pensieri che si aggiravano soprattutto intorno ai quasi 11 anni del mio matrimonio e a quel che c'era stato in quegli anni tra Gianni e me. Però avevo paura di prendere i fatti in mano, di estrarli da quell'aura di felicità in cui sinora li avevo immersi, di esaminarli considerandoli con lo sguardo gelido della mia adolescenza. Isolavo qualche accadimento singolo e ci rimuginavo sopra. Poi, quando avrei dovuto collegarlo e smembrarlo, oppure addirittura ritornare indietro ai tempi che avevano preceduto l'incontro tra me e Gianni, lo respingevo in fretta. Anche la mia gelosia, a Torino mio marito usciva di preferenza con una nostra comune amica, era confusa e impotente come i miei pensieri. Talvolta reinventavo un vecchio salice di lì che avevano sradicato proprio accanto al recinto dell'orto. Verso il tramonto diventava tutto d'oro, storto e calvo com'era. Pochi rami spuntavano ormai di qua e di là dal tronco. Tuttavia, mentre calava il sole, non si poteva distogliere lo sguardo dalla sua luce. Quando ero arrivata quell'anno, lo avevano appena strappato dalla terra. M'ero sempre detta che avrei voluto scrivere su di lui e sul merlo nero che aspettava il momento dorato per sedersi a cantare nel bel mezzo della cavità in cima al tronco nudo. E ora mi pareva di non poterlo più descrivere. Quasi me ne fosse sfuggita per sempre l'occasione. Io ero lì, schiacciata in quello scomodo letto a una piazza in mezzo in cui 7 mesi prima avevamo concepito il nostro bambino e non potevo muovermi, non potevo fare nulla. Io non ero io affatto, non ero che il mio pancione. Il sabato precedente, mentre Gianni metteva le camicie e la biancheria nella borsa, gli avevo detto: perché non sali un po' prima la settimana prossima invece di andare a farti caricare dalla polizia? Era l'estate del 60 e lui si era molto animato raccontandomi di avere schivato l'autoblindo della polizia balzando da una colonna all'altra in via Po. Non lo capisci? Mi aveva detto. Così mi sento ancora giovane. Io ero quella che glielo impediva. Io con il mio pancione. E un'altra volta, che all'ultimo momento, secondo il suo solito, lavorava notte e giorno per terminare un lavoro, mi aveva rimproverato per una mia protesta. Ma non lo capisci? Sono in lotta con il tempo. Ero quella che non capiva, quella dei bagagli, del morbillo, della pertosse, quella sempre stanca e con il mal di stomaco, quella di cattivo umore. Lui tornava a casa il più tardi possibile e io ero lì stanca e di cattivo umore, i bambini lavati però, nutriti e già a letto. Quando mai ero stata felice? Ero depressa, di regola, terrorizzata prima di ogni parto, anzi a ogni bambino avevo più paura. Lentamente, veglia dopo veglia, mentre ascoltavo scricchiolare le vecchie soffitte e fuori, sapevo, la terribile notte lunare della montagna, così stretta e nera nelle valli e aerea sulle cime, la mia gioia se ne scorreva via come il sangue da un corpo colpito a morte. «Sono una ragazza madre», dissi una notte in uno dei miei improvvisi lampi di illuminazione razionale che poi continuano a bruciare dentro di me, fiochi ma necessari nel loro piccolo tondo luminoso come una candela sul tavolo. Sono sempre stata una ragazza madre. Il bambino si mosse con violenza, puntò a destra e poi esplose in una serie di colpetti più molli, interlocutori. Mi parve di rannicchiarmi dentro la mia pancia insieme con lui. In quella stessa estate, un mese più tardi, scrissi una lunga lettera a mio marito che si trovava in un campeggio all'Elba con i nostri 2 maggiori. Gli chiedevo di rispondermi. Nella nostra vita comune ne scrissi poi solo un'altra sullo stesso argomento, su noi 2 cioè, e su quel che ne sarebbe stato di noi. Né la prima né la seconda ebbero mai risposta. La seconda la ritrovai poi tra le sue carte e, come già avevo fatto con le lettere scritte a mia madre, la presi e la conservai. Della prima mi disse una volta di averla persa all'Elba in un caffè mentre stava pensando che cosa rispondermi. Che in realtà non potesse rispondermi e che da quella impossibilità, la quale si scontrava con la mia esigenza di chiarezza sempre, qui davvero lui cattolico e prudente e io protestante e imprudente, da quella impossibilità sarebbe poi partita la lunga evoluzione che ha portato alla fine del nostro matrimonio, ma non d'una nostra intesa, senza per questo sgomitolare le sue difese a un punto di rischio estremo per il suo equilibrio. Questo io neppure lo supponevo. Tanto lo avevo costruito insieme alla nostra unione, lo avevo murato nelle fondamenta della mia personale felicità. 3 settimane prima che nascesse il bambino, sognai una notte di trovarmi con i miei 3 figli in un aeroporto, in una larga valle desertica, insieme con altri che erano con noi, aspettavamo la fine del mondo. La valle era bordata da basse montagne moreniche, e il cielo al di sopra della loro linea dritta e piana era illuminato da una luce interiore violenta e pallida, la quale preannunciava appunto l'avvenimento disastroso e ingrigiva il pietrisco della vallata. Quando venne, e non so rappresentarlo se non come un vento stellare, mi gettai sopra i miei 3 bimbi. Sopravvivemmo e, passata la catastrofe, mi rialzai. I miei 3 figli erano illesi. Soltanto il più piccolo aveva una minuscola ferita sanguinante all'angolo della bocca. Quando mi svegliai di soprassalto nella notte, sentii incominciare lentamente le contrazioni del parto, che solo verso il mattino cessarono. Il bimbo che nacque a settembre fu un bellissimo maschio, lo chiamai Andrea, con gli occhi e i capelli scuri, il viso rotondo, pallido e sodo. Quando lo attaccavo al seno, grugniva, dolce e deciso, come un giovane lupo. Non l'ho mai sentito come gli altri 3 che lo avevano preceduto. Era, sì, un figlio mio, a cui mi legavano gli stessi vincoli, ma era anche un altro, venuto da chissà dove, per non so quale volere, forse da quel vento stellare. Il mio aggancio con lui, che così dolcemente grugniva mentre lo allattavo, fu diverso da quello con gli altri figli, insidiato da timori, quasi sentissi a momenti mancarmi la presa, sfuggirmi la mia certezza di madre. Questo figlio, pur così sano e robusto e bello, poteva scomparire come era apparso. Ancora adesso, che è un uomo, temo sempre che non ritorni indietro quando è lontano, che non mi telefoni, che non mi scriva, che taccia per sempre, che non mi riconosca. Mentre cresceva, continuava ad allevare sua sorella e i suoi 2 fratelli con poche norme, rudimentali ma costanti. E anche a scuola, pure là, allevavo bambini. Io, che tanto amavo starmene nel mio angolo, ero sempre in mezzo ad altri. E poco importava che cosa insegnassi. La materia era il mezzo, mai lo scopo. Cercavo di togliere loro le paure. Anzi, mi pare che questo fosse l'unico elemento in comune tra il mio allevare bambini a casa e a scuola. E qui gridavo volentieri: non sono la vostra mamma. Laura e Pietro, i dispari, dicono che in fondo soltanto Paolo ha avuto una mamma. Paolino, gorgheggiano, imitando quella che dicono sia la mia voce quando parlo con lui o di lui. Paolo ride allora e Andrea ascolta e tace. Il suo silenzio d'oscuro animale notturno mi intimorisce di nuovo. Mentre per gli altri 3, un tutto unico da cui lui è vissuto separato, volevo rispettate quelle norme fondamentali, con lui cedevo, come se la sua norma lui se la portasse seco. Si alzava da tavola prima che avessimo terminato il pasto, anche se stavamo discutendo di qualche cosa che riguardava tutti. Gli altri mi facevano cenno. Laura ricordava il giorno in cui aveva dovuto mangiare una pasta asciutta rifiutata, seduta sul suo seggiolino in gabinetto, il piatto sul coperchio del water. Andrea stava sveglio la notte a leggere. Entravo nella camera, lui alzava gli occhi dal libro. Il Purgatorio è bellissimo, diceva, senza entusiasmo, constatando. Qualche volta mi raccontava i suoi sogni, ma di solito non mi confidava altro. Il sogno seguente me l'ha scritto, perché non se l'è sentita di raccontarlo. Sogno di Andrea. Bussano alla porta, apro e vedo innanzitutto la nonna con un grande cappello tipo sombrero che la ringiovanisce. Strano, non ansima nemmeno. Mia sorella che la accompagna e la zia Sisi. Sono contento, è la prima volta che vedono la mia casa e voglio essere ospitale. Sposto le sedie per farle accomodare, ma mi muovo con difficoltà. L'ambiente è molto piccolo e devo misurare i movimenti. Mentre loro incominciano a chiacchierare, voglio preparare del tè. Salgo sullo sgabello per prendere il necessario, apro l'armadietto e vedo con molto disappunto che al posto delle mie cose da cucina, mia madre, che intanto è comparsa sulla scena, ha sistemato le sue porcellane. Sono arrabbiato, non posso più preparare niente. Il mio primo istinto sarebbe di scaraventare tutto a terra, ma mi trattengo e sento mia sorella che mi dà ragione. Mia madre vorrebbe farmi accettare il fatto compiuto, ma io, guardandola dall'alto, fisso negli occhi, prendo le due porcellane più belle e le butto per terra una alla volta. Mia madre, immobile, si morde impercettibilmente il labbro inferiore e io mi fermo, perché capisco che i miei gesti hanno ormai perso la forza della teatralità. Siamo sotto, all'ora di cena. Mia madre, invece di darmi da mangiare, mi mette in bocca un coccio ruvido delle sue porcellane che ho rotto, dicendomi con astio: «Guarda, è la cosa più preziosa che ho». Io la insulto: «Stronza, stronza, ho solo 4 metri cubi e tu te ne vuoi prendere mezzo». Interviene mio padre, come sempre intempestivo, dicendo che forse «stronza» è un termine un po' pesante. Distinto io rispondo: «Vigliacca, allora». E subito mi viene in mente che quello era il termine giusto per ferirla. Anche se sono sconvolto, piango e urlo, sono soddisfatto della mia vendetta. Mi sveglio seduto sul letto, mentre sto ripetendo, ormai senza più convinzione, «è stata lei a voler incominciare». Ora io mi chiedo: quando mai ho posseduto delle porcellane? Che i miei figli mi sognino così odiosa e odiata non mi inquieta. Scorro dentro di loro in mille rivoli e i miei errori di madre appartengono agli errori contenuti nelle ampolle lunari delle follie di tutti. Quali che possano essere stati, fruttificheranno, mi dico, e non ho potere sui loro frutti, dolci e amari che siano. Non mi paiono conclusi, fermi in se stessi, definitivi. Patrizia Zappa-Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.